punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Una settimana di attualità che andiamo a concludere da Perugia. Un saluto a tutti da Gigi Donelli. Questa mattina appunto il Festival Internazionale del Giornalismo arriva alla sua penultima giornata con un calendario peraltro ricchissimo fino a domani sera. Qui dunque in esterna, come avrete sentito, alcuni dei nostri programmi di queste giornate. Tra l'altro più tardi, tra un'ora, l'appuntamento consueto con l'Altra Europa, anche qui in diretta da Perugia. Dunque un programma che realizziamo con l'assistenza tecnica di Filippo Aureggi, Davide Ciocia, mentre in regia a Milano abbiamo Pietro Laccorte stamattina, e non dimentichiamo Franco Piantanida che ha realizzato appunto con me la scaletta di questa mattinata. Allora, come sempre il nostro è il momento in cui ricostruiamo un po' alcuni dei passaggi che riteniamo opportuno memorizzare, ricordare della settimana radiofonica. Come sapete, per Radio 24 questa è stata poi una settimana molto particolare, legata all'iniziativa Disperati Mai, l'iniziativa che Radio 24 porta avanti per offrire una sponda, possiamo dire, un confronto, ma anche dei consigli pratici, e soprattutto per svolgere poi quello che è il ruolo nostro e delle radio, insomma, per affermare l'informazione di un paese che in parte sta soffrendo davvero una fase estremamente complicata. Ecco, da questa mattina qui da Perugia, dove c'è intorno a noi un mercato dell'antiquariato, una piazza serena della provincia italiana, tutto questo sembra quasi un altro mondo, eppure sappiamo benissimo che per migliaia di persone questi sono davvero mesi terribili. Allora, il lavoro che non c'è, le preoccupazioni e purtroppo i gesti estremi. Radio 24, come sapete, è da è istituzionalmente vicina agli imprenditori, e in questa fase, con un progetto iniziato ormai 2 settimane fa, si cerca di offrire appunto una sponda e dare consigli pratici, e soprattutto attivare la politica e l'amministrazione perché siano prese iniziative. E ripartiamo il nostro racconto settimanale dall'editoriale del direttore Fabio Tamburini, che appunto chiude una giornata, quella di ieri, dedicata a Radio 24 interamente a questo tema. La mia vita è finita, coraggio a chi andrà avanti, io non ce la faccio più. Comincia così una delle oltre 1500 lettere ricevute da Radio 24 dopo aver lanciato l'iniziativa Disperati Mai una decina di giorni fa. Siamo letteralmente sommersi da messaggi drammatici, e lo conferma il numero impressionante di suicidi. Non si può parlare di scelte individuali, è evidente che si tratta di un fenomeno sociale, e mettere la testa sotto la sabbia facendo come gli struzzi è un errore grave. Va spezzato il muro della solitudine e dell'indifferenza. Radio 24 significa la passione si sente, e la stiamo impiegando tutta nel dare voce ai vostri problemi, alle vostre difficoltà. Oggi buona parte del palinsesto della radio è dedicato a questo. Oscar Giannino e Alessandro Milan fino alle 10. Poi Gianluca Nicoletti con Melog, Nicoletta Carbone a Essere Benessere, Deborah Rosciani a Salvadanaio, fino a Sebastiano Barisoni con Oscar Giannino a Focus Economia. La speranza è che possa servire a raggiungere un risultato. Dopo i sacrifici occorre una politica di rilancio dell'economia, una politica di sviluppo. Sono necessari interventi strutturali. Adesso o mai più servono una riforma fiscale coraggiosa che abbassi le aliquote fiscali troppo elevate per imprese e persone fisiche, taglia la spesa pubblica improduttiva, lotta all'evasione e alle mafie, perché il costo della illegalità ormai è insostenibile. Buon ascolto. Insostenibile, questa la giornata di ieri, raccontata dal direttore di Radio 24 Fabio Tamburini, raccolta, ve lo ricordo, su radio24.it, dove appunto potete risentire ciò che è accaduto, ma potete soprattutto continuare a partecipare a questo progetto che ovviamente non finisce qui. E allora, a proposito di storie, ne abbiamo scelta una, è quella di David Messina, che è un imprenditore che ha scritto una delle oltre 1500 lettere arrivate in redazione. La mia azienda, che opera nel settore del recupero dei rifiuti, in particolare quello dei toner, Noi di fatto recuperiamo dal rifiuto cartuccia esaurita la cartuccia stessa, trasformandola in bene nuovamente funzionante. Lo facciamo a livello serio, a livello industriale, abbiamo un marchio noto a livello nazionale. E insomma, decidendo di aumentare la forza lavoro, ho capito anche che per mantenerla dovevo avere a che fare con ordini più grandi rispetto a quelli che nella norma si possono ricevere dal pubblico, e quindi mi sono rivolto alla pubblica amministrazione. E ho scoperto che la pubblica amministrazione, come tutti gli altri imprenditori già sanno, oltre a pagare in ritardo, è anche furba. È furba perché ti mette nelle condizioni di prosciugare tutta quanta la liquidità, perché se non ti paga per ben un anno, cosa vuoi? I fornitori li devi pagare, i dipendenti li devi pagare, e arrivi a un punto in cui sei disposto ad accettare la qualsiasi purché ti venga pagata la fattura. Bene, io vi racconto un caso che mi ha lasciato davvero riflettere e capire che la pubblica amministrazione è la causa di tutta la crisi che c'è, ed è il caso di una fornitura che è durata per più di un anno e mezzo con un ente del Lazio. Insomma, ad un anno di ritardo dalla data concordata del pagamento delle mie fatture, dopo pressioni tra fax, telefonate, eccetera, eccetera, mi si dice: guardi, signor Messina, se lei vuole possiamo pagarle parte delle sue fatture se rinuncia al 5% di queste. Dico parte delle fatture, e attenzione, c'è di più, per il resto deve aspettare, e deve aspettare fin quando avremo i soldi e non potrò farci nessun decreto ingiuntivo. Bene, visto che la liquidità scarseggiava a causa dello Stato, non per cattive gestioni nostre, pago un volo perché non me l'ha pagato nessuno e mi reco a Roma. Pensavo di essere solo, in realtà c'erano decine e decine di imprenditori in fila per firmare, loro lo chiamano un atto transattivo, di rinuncia al 5% delle proprie fatture per avere pagato parte di queste. Cioè uno sconto, lo Stato cosa chiedeva? Uno sconto. Sì, esatto, uno sconto dicendoti se vuoi velocemente i soldi. Dici, se vuoi quello che ti deve, autorizzami a non pagarti quello che ti devo. Ladri, esatto. Mentitori, andrebbero portati in tribunale, andrebbero portati... Avete senz'altro riconosciuto anche dal tono delle due voci Alessandro Milan, il suo appuntamento ogni mattina, 24 mattina, precede quello di Oscar Giannino, che è entrato appunto in campo invece più se vogliamo arrabbiato, perché questo è tutto sommato il termine, a sentire cosa che accade costantemente, come persone come questo signore David Messina abbia una posizione attenta a un pagamento dalla pubblica amministrazione, non solo non lo riceve ma di fatto subisce un ricatto. Che ne dice? È pronto a rinunciare al 5% per avere forse il pagamento che le è dovuto dall'ufficio? Insomma, queste condizioni ormai sono così diffuse che sono diventate una parte della nostra normalità, e probabilmente per colpa di tutti, per colpa anche nostra, della stampa, c'è stata un'eccessiva tolleranza rispetto a dei costumi che in tutti i settori, in realtà, perché abbiamo parlato all'inizio del giornalismo, quindi i ritardi dei pagamenti, un meccanismo che di fatto rende a molti la vita impossibile. Allora, intanto ci ha raggiunto qui nello studio di Perugia Thierry Vissol è rappresentante della Commissione Europea a Roma, in Italia. Sì, quindi buongiorno Thierry, benvenuto. La prima domanda è semplice: queste cose accadono solo in Italia? Beh, non so in tutti i paesi, quello che so è che ci sono delle legislazioni a livello europeo che chiamiamo il financial regulation, che normalmente impone alle amministrazioni pubbliche, particolarmente alle istituzioni comunitarie, di procedere ai pagamenti su tutti i contratti che sono fatti con privati o pubblici in un arco di tempo ridotto, cioè logicamente 60 giorni, non di più. E vengono rispettati, perché come sai anche da in Italia noi non manca nessuna regolamentazione. Quello che posso dire è che dalla Commissione Europea, che gestisce un bilancio che è assai grosso, più di 100 miliardi di euro, sì, è rispettato. Bene, dunque l'Europa, se tra l'Italia... l'altro, se non lo fosse, prego, possiamo anche essere proseguiti. Perseguiti, assolutamente, come peraltro può essere la pubblica amministrazione italiana. Dopodiché si entra in un altro meccanismo, che è quello che pone il signor Messina, che potrei essere io, di fronte a una pubblica amministrazione organizzata con le sue strutture, con i suoi avvocati, ma insomma sicuramente non una buona ragione per non farlo. Dicevamo dell'Italia e delle sue difficoltà, ma parliamo allora di Europa. Tra le notizie della settimana, una breve, la cito: Standard & Poor's taglia il rating della Spagna. Sono, come sappiamo, ormai ci siamo abituati a ragionare anche in termini di rating, ma anche gli interventi di Mario Draghi, le misure strutturali. Dunque ormai tutti parlano di crescita e sviluppo. Siamo... Chiaro, e questo è venuto anche dalle agenzie di rating, che anche se si può dire un sacco di cose negative nel loro confronto, non devono essere demonizzati. Se si guarda le ragioni per quale hanno abbassato il rating di più paesi, tra cui l'Italia e anche la Francia, una delle ragioni era giustamente che le misure di austerità non erano sufficienti per riportare, diciamo, una situazione di stabilità economica e una situazione di debito sostenibile. E dunque anche là, nelle ragioni che danno per abbassare il rating della Spagna, c'è l'idea che giustamente le misure che sono state prese non permetteranno alla Spagna di uscire dalla crisi. Cioè il problema è quello di rilanciare la crescita. E per farlo, e qui c'è la parola della Commissione proprio attraverso Thierry Vissol, il primo punto è quello di spendere ciò che si in cassa, non di più, come in molti paesi europei hanno fatto. Ma diciamo, ci sono molte soluzioni, la Commissione ne ha proposto parecchi, adesso la palla è piuttosto nel campo dei politici. Secondo la Commissione ci sono delle riserve di crescita e di creazione di posti di lavoro in più campi, in più settori, particolarmente la green economy, dove pensiamo che ci sono 20 milioni di posti di lavoro possibili, o nelle tecnologie dell'informazione, dove ci sono ancora là più milioni di posti di lavoro possibili. Dunque, spazi ci sono. Spazi ci sono, il problema è di fare una politica dentro questo. E anche là ci sono state delle proposte fatte dall'Unione Europea, per esempio l'ampliamento del ruolo della BEI o la creazione dei project bonds, giustamente per finanziare gli investimenti necessari per fare crescere la green economy, per fare crescere l'economia delle tecnologie dell'informazione. Poi c'è un'altra cosa che deve essere detto, è che c'è bisogno anche di una formazione dei giovani per andare verso questi settori. Ne abbiamo parlato molto in questi giorni a Perugia, direi che è stato emerso come uno dei fattori centrali, la formazione. Adesso sentiamo invece un passaggio che riguarda di nuovo la politica, l'abbiamo citata, la spesa, la riduzione, il servizio di Elisabetta Fiorito. La maggioranza inchioda il governo sulla crescita, approvata alla Camera e al Senato la risoluzione di PDL, PD e Terzo Polo sul documento di economia e finanza. La maggioranza chiede di fatto l'apertura di una fase nuova, stanziamenti in grado di far ripartire l'economia, il fiscal compact, il patto fiscale accompagnato da investimenti per lo sviluppo, sì agli euro bond e agli stability bond, mentre per abbattere il debito si chiede un piano straordinario di dismissioni. Le risorse della spending review e della lotta all'evasione devono essere destinate alla riduzione delle tasse. C'è poi la necessità di fare della BCE un prestatore di ultima istanza. Ma il premier Mario Monti avverte: no ad una crescita effimera, no a politiche pro deficit, anche se contatti sono in corso con Berlino per stimolare la crescita. Non è ancora il momento di ricette specifiche, del resto come sapete stiamo lavorando in stretto contatto con il governo tedesco e stiamo elaborando varie ipotesi. In Italia l'attenzione è puntata quindi a rilanciare l'economia. Francesco Boccia del PD spiega: è necessario fissare termini chiari sulle risorse che andranno allo sviluppo già nel 2012. Il PDL è più critico, così Fabrizio Cicchitto. Si impegna il governo ad una nuova fase, che è quella che poi può giustificare una nuova missione e una sua durata fino al 2013. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. La politica, il ruolo della politica, vi ricordate? Settimana scorsa abbiamo iniziato parlando, sembrava imminente una legge quadro davvero innovativa sul finanziamento pubblico dei partiti. Bene, la seconda settimana è finita, restiamo in attesa, fiduciosi, insistendo su un aspetto centrale per quello che riguarda l'Italia. Rieccoci qua, ancora un buongiorno da Perugia, da Punto a Capo, da Gigi Donelli con la squadra di Radio 24 qui in Umbria, nella bellissima Umbria, oggi con Filippo Aureggi, Davide Cioce, lo ricordo Franco Piantanida che ha realizzato la scaletta con me, e Pietro Lacorte invece a Milano, gli tocca oggi, Pietro resta negli studi milanesi, ma noi abbiamo anticipato che saremo ripartiti dalla Francia, dal momento, dalla settimana, dal weekend di transizione e di riflessione, ma anche di tentativi di rafforzare le proprie posizioni, insomma, per un Sarkozy che appare perdente nel primo turno, il nostro Dario Ceccarelli a lui ha dedicato uno dei suoi graffi. Se le borse sono spaventate da Hollande, anche per Sarkozy sono guai. Mes chers compatriotes, la France vient de traverser une épreuve au service des valeurs de la République. Je vous remercie. Io ti amo nella gioia e nel dolore. Carla Bruni, per consolarlo, gli ha cantato anche stanotte la sua ultima canzone. Caro paese d'infanzia, mi hai collato di speranza e ti ho preso nel mio cuore. Forza, forza, che è mattino. Dunque questa Carla Bruni, così appunto rilassante di mattina, ma i suoi problemi in realtà forse arrivano da altre donne. Ieri sui quotidiani del gruppo VATS una Angela Merkel che dice: lavorerò bene con chiunque vinca, il che da una parte è ovvio perché i cancellieri così si esprimono, ci mancherebbe che non fosse così, però insomma diciamo che dopo mesi di d'un virato, come è stato anche definito, franco-tedesco, per Sarkozy l'appoggio internazionale era fondamentale. Adesso cosa fa Angela Merkel, secondo te, Thierry Vissol? Si tira fuori o semplicemente fa appunto quel esercizio di diplomazia? Tutta la storia dell'Unione Europea è basata su una coppia tedesca-francese. E quello che ha funzionato il meglio, se mi ricordo bene, sono quando ci sono stati due partiti diversi per l'uno e l'altro. Mitterrand e Kohl, per quindi dire uno, o un altro, in Germania, Giscard Schmidt, che era al contrario. Dunque, in ogni modo, Francia e Germania devono lavorare insieme e lavoreranno insieme, qualsiasi, come lo dice la Merkel in modo molto giusto, quello che sarà eletto. Su questo non abbiamo dubbi, d'altra parte il pilastro intorno a cui si fonda anche storicamente l'Unione lungo il Reno, lungo l'asse fluviale dell'Europa, però è anche vero che in questi giorni ho visto in un paio di interventi François Hollande parlare proprio della necessità di rompere un po' questo schema, e lui ha citato esplicitamente l'Italia. Gli ha detto, insomma, la Francia ovviamente è una grande potenza come la Germania, ma possiamo fare di più, possiamo fare qualcosa di più europeo. Sì, si può dire tutto di Hollande, ma capisce anche un po' come funziona e sa effettivamente che il suo progetto principale a livello europeo, cioè la rilancia della crescita, ha bisogno di altri supporti, e sa che Monti è sulla stessa linea, sa che gli spagnoli sono sulla stessa linea, e dunque è il suo interesse di andare verso non più una coppia, ma diciamo una serie di accordi con vari altri paesi membri per arrivare al dunque, cioè come fare per convincere la Merkel di andare avanti sulla via della crescita e non solo sulla via dell'austerità. E intanto deve vincere le elezioni, lo ricordiamo settimana prossima, sì. Al ballottaggio, in una battuta, poi andiamo su un altro tema. Hollande è avanti, ma Sarkozy è tutt'altro che sconfitto, ritorna a, diciamo, a corteggiare Bayrouth, i centristi. Ma che diciamo punto siamo? Che tutti i due candidati sono a cavallo tra l'estrema destra e l'estrema sinistra, con un peso al centro che è determinante. E dunque questo è un po' anche un problema, perché chiaro che anche Hollande ha dovuto prendere in conto il voto a favore di Le Pen, e dunque argomenti che non sono tanto simpatici, secondo me. Per di più c'è anche quest'idea del ritorno un po' allo Stato-Nazione, un po' di chiusura delle frontiere, comprare francese, invece di dire compriamo europeo, per esempio. E dunque ci sono un po' di argomenti positivi e un po' di argomenti negativi. Chiaro anche che se Sarkozy fosse eletto, questo che sembra meno probabile adesso, anche lui andrebbe sull'idea della crescita, non ha scelta. E direi che su questo non ha scelta nessuno nella posizione di leadership in Europa e non solo. Ma con Thierry Vissol, e ringraziandolo della sua partecipazione, vorrei inevitabilmente chiedere: qual è stata secondo te la notizia della settimana in chiave europea? Beh, diciamo c'è una notizia solo, che è ancora una volta la parola crescita. La parola crescita che è stata pronunciata in un modo molto molto pertinente da Mario Draghi della BCE, da Tajani che ha fatto un giro dell'Europa per incontrare il primo ministro greco e irlandese, andare in Spagna e anche incontrato Merkel. Nella sua veste di vicepresidente della Commissione. Nella sua veste, esattamente, per parlare giustamente di crescita, di rilancio delle imprese, delle piccole e medie imprese, e infine l'incontro Monti-Merkel per parlare della stessa cosa. Dunque questo è veramente la notizia, cioè le elezioni francesi hanno anche un impatto, diciamo, in termini di informazione, di pubblicizzare la tematica della crescita e renderla ancora più importante, e si vedrà anche sicuramente nel risultato delle elezioni greche il 6 maggio, che è lo stesso giorno che il secondo turno delle presidenziali francesi. Infatti, 6 maggio, una giornata importante. Grazie a Thierry Vissol per essere stato con noi questa mattina. Lo ricordo, la rappresentanza della Commissione europea a Roma, dunque ci porta notizie, tra l'altro qui a Perugia, proprio all'interno sia del lavoro che Radio 24 svolge con la rete Euronet, sia i progetti stessi del Festival di Perugia. Ci sono moltissimi incontri su questi temi. È una cosa che mi tocca dire spesso, cioè siamo in un periodo abbastanza paradossale, questa Europa così attaccata e discussa, non l'ho mai sentita così importante come in questi 2 anni, sulla politica, sulla cultura, sulla formazione, di cui abbiamo parlato tanto anche in questi giorni. Bene, dall'Europa, a proposito di elezioni, altro grande appuntamento elettorale per la seconda parte dell'anno è naturalmente la battaglia, se così sarà, per la Casa Bianca. Intanto Mitt Romney fa cinquina, dunque il candidato alla nomination repubblicana ormai solitario, in base alle proiezioni ha vinto come previsto in 5 stati. Si votava a New York, Connecticut, Pennsylvania, Delaware, Rhode Island. Allora sentiamo intanto Romney. Together we are going to win on November 6th. Tonight is the start of a new campaign to unite every American who knows in their heart that we can do better. We can do better. Allora abituiamoci, forse sarà questo lo slogan dallo Yes We Can. Certo, era un po' più forte quello di Barack Obama. Detto ciò, ci sono ancora una volta, insomma, due Americhe, o comunque due espressioni dell'America che non sono certo incompatibili l'una con l'altro. Forse Romney sembra così lontano, ma su tanti temi, soprattutto quelli legati più profondamente alla cultura americana, alla religiosità, il credo metodista, eccetera eccetera, sono molti i punti di incontro tra queste due figure. Approfitto per ricordarvi, questa sera alle 19:30 abbiamo un appuntamento dedicato all'America nello spazio di 30 minuti in cronaca, una grande vicenda sociale che è stata quella della migrazione interna di 6 milioni di americani, neri americani, che dagli stati del sud si sono mossi verso le grandi città, verso Chicago in particolare. Sapete benissimo che Chicago è la città di Barack Obama e di sua moglie. Sua moglie addirittura ha un bisnonno che era schiavo, letteralmente, c'era una sua biografia nel sud dell'Alabama. La sua famiglia fa parte di questo movimento formidabile che ha portato appunto milioni di neri americani di fatto da una condizione di schiavitù poi alla guerra di secessione, quindi una liberazione formale, ma come probabilmente ricordate, tra Martin Luther King e Malcolm X c'è voluta molta strada ancora negli anni 50, semplicemente perché un afroamericano potesse sedersi su un autobus. Nel 64 dunque la legge sui diritti civili, e a meno di 50 anni di distanza un presidente afroamericano nero alla Casa Bianca, e questa è anche la meraviglia, devo dire, degli Stati Uniti, un paese pieno di contraddizioni ma certo non privo di capacità e fantasia. Bene, altro tema, ci riporta in Europa, anche se lui ormai è di nazionalità australiana, il grande tycoon Murdoch, raccontato in un servizio a metà settimana, sentiamolo. We're all misinformed and shielded from anything that was going on there, and I do blame one or two people for that, that perhaps I shouldn't name. Eccolo qua, dunque, Murdoch torna a parlare, spiega che si difende, ritorna a parlare della vicenda a News International, dice i vertici furono disinformati, tenuto all'oscuro di quanto stava accadendo, insomma non certo una difesa di grandissima dignità, affermare che è colpa dei sottoposti, ma tant'è, questo ha fatto, e così ha parlato Murdoch alla commissione che indaga l'etica e i comportamenti della stampa britannica, ricorderete l'enorme scandalo e la chiusura poi del tabloid News of the World, e Murdoch poi però ha ammesso che qualcuno tentò un insabbiamento. Tra le cose da ricordare di questa settimana, un fatto di cronaca che in realtà è riaperto dalla cronaca, sentenza d'appello per il delitto di via Poma. Sentiamo servizio. No, pardon. Siamo naturalmente soddisfatti, questo è fin troppo ovvio. Diciamo che il sistema processuale italiano, anche se è un sistema macchinoso, anche se la giustizia arriva con tempi che sono intollerabili per una persona innocente, comunque ha dimostrato di saper funzionare e di saper quindi correggere sulla base dei suoi meccanismi interni gli errori a cui inevitabilmente un giudice è esposto. Qui la sentenza di primo grado a nostro avviso era erronea, il giudice di appello ha corretto questo errore e direi che giustizia finalmente è stata fatta. L'avvocato Franco Coppi è uno dei legali di Raniero Busco, che è stato dunque assolto con la formula per non aver commesso il fatto. Questa è una delle notizie della settimana. Un altro riguarda un fatto di cronaca. Giovedì, intorno alle 19.30, a Roma c'è stata paura davvero all'ingresso della stazione Termini, con un convoglio che deraglia proprio all'interno della stazione. È stata una lieve collisione con pochi feriti fra personale dipendente. Il tratto interessato è stato bloccato, isolato. E c'è qualche ritardo, ma niente di che, insomma. Ecco. La stessa Ferrovia dello Stato parlavano non di un deragliamento, quindi. Ma il deragliamento, ripeto, c'è stata una lieve collisione fra due frecce rossa. Probabilmente ci sarà stata pure qualche carrozza che è andata fuori, ma niente di che, insomma. Una collisione molto lieve. Champions League, e cambiamo decisamente pagina, questa è stata anche la settimana di una inattesa, almeno sulla carta, doppia sconfitta spagnola, Barcellona dunque di Guardiola, Real Madrid di Mourinho, le superpotenze del calcio, erano attese almeno idealmente a Monaco di Baviera per il 19 maggio, invece la guarderanno come tanti altri dal divano di casa. Giovedì 26 Gigi Garanzini ne parla con Fabio Tavelli. Una notazione tecnica e tattica, secondo me, è tanto più sbalorditiva l'eliminazione di Barcellona e Real, perché non sono due squadre avventuriste, al di là del fatto che sono diversissime tra loro per come sono costruite e per come giocano, ma tutte e due sono andate addirittura sul 2-0. No? E quindi questo, dato che gli bastava l'1-0, perlomeno a Barça per giocarsela poi più avanti, tutte e due vanno sul 2-0, vanno sul 2-0 entro la mezz'ora, 35esimo del primo tempo, una addirittura in superiorità numerica, Poi una va bene, ha le sue disavventure, anche di sfortuna, eccetera, come ha avuto il Barcellona, pali, traverse, quello che è, e occasioni sbagliate finché ce n'è. Il Real addirittura invece non passa più la propria metà campo, che credo sia il conto che la società potrebbe presentare a Mourinho a fine stagione, da questo punto di vista. Poi certamente la vittoria in Liga attenuerà questa delusione. Ecco, questa secondo me, al di là degli episodi, dei singoli, dei rigori, delle cose, dovrebbe fare sensazioni, io credo. Sì, ma la fa enormemente. Da un lato c'è una semifinale profondamente sbilanciata, quella tra Barcellona e Chelsea, che ci fa dire, credo, senza grandi temi o timori di smentita, che solo nel calcio possa accadere una cosa del genere. Cioè, in nessun altro sport di squadra, ma io credo nemmeno a livello individuale, un competitor così palesemente inferiore all'altro, soprattutto su due partite, sulla somma di due gare, ha la possibilità di passare. Ed è veramente solo nel calcio che queste cose possono accadere. Io credo che non ci siano possibilità in altri sport. Ripeto, sono state due cose molto diverse. I paragoni sono tantissimi. Il fatto di essere andati avanti 2-0 molto presto ci può anche far dire che è stato troppo presto, con tutta probabilità. Però è anche vero che il Bayern di Monaco, nella somma delle due gare, ha certamente meritato. Non c'è dubbio. Perché ha ovviamente giocato meglio. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. E questo fa molto riflettere, credo, ma in primis José Mourinho, che da persona intelligente non può non averlo notato, che effettivamente mentre il Barcellona ha giocato sotto il suo livello, diciamo sotto il livello perché probabilmente in questo momento non riesce a far di più, il Real Madrid ha giocato sotto il suo livello, ma probabilmente in questo periodo potrebbe fare molto di più e spesso fa di più. Cioè, una partita come quella del Classico giocata al Real Madrid, credo che il Bayern di Monaco non avrebbe avuto scampo. E invece è possibile che anche l'atteggiamento del Real Madrid è un po' figlio delle disposizioni del suo allenatore, che nel secondo tempo di fatto ha abbastanza rinunciato a giocarsela. Io capisco che prendere un gol nel secondo tempo per il Real sarebbe stato esiziale, però se glielo fai, però se glielo fai, certo, devono farne due gli altri. E così è andata, al di là delle previsioni, e fa parte senz'altro dello spettacolo che in Italia vive anch'esso, diciamo, momenti complicati, ma insomma, nel giro di un mese questa notizia ci porta alla Scala. La Scala avrà il suo nuovo CDA allargato a 11 consiglieri, come prevede il nuovo statuto realizzato per adeguarsi proprio alla nuova autonomia gestionale. Entro la prossima settimana il ministro dei beni culturali Lorenzo Ornaghi indicherà i due consiglieri nominati appunto dalla struttura. Martedì scorso era alla Scala, ma anche a Brera, con in ballo appunto, come sapete, un progetto museale estremamente importante. Allora, proprio su Brera il ministro dice il primo passo è stato fatto. Sentiamo. Prima che finiscano la scuola secondaria sicuramente la vedono. Ogni altro privato che intenda contribuire è benvenuto. Prima che finiscano la scuola secondaria, evidentemente il riferimento al fatto che Brera sia un polo museale ma anche universitario, scolastico, un luogo circondato peraltro da altre scuole pubbliche. Bene, ci contiamo. E parlando invece adesso di cinema, come sempre Marta Cagnola ci fa il punto sulle uscite della settimana. Temi dal film dal tema delicato, Maternity Blues, la storia di madri che arrivano ad uccidere i propri figli. Tra le protagoniste, Flavia Pennafina. È un testo difficile e delicato allo stesso tempo, proprio per il fatto di cui si parla, perché l'infanticidio è tuttora forse il più grosso dei tabù che esistono nella società moderna. Quindi affrontarlo con la dovuta, voglio dire, profondità e la giusta delicatezza non è stato semplice. Questo devo dire grazie al regista Cattani, che ha saputo scavare nell'animo malato di queste donne in maniera poetica, tanto da tirarne fuori il malessere, sì, ma non senza creare giudizi di ogni sorte, quindi dando così allo spettatore una visione di quello che può succedere e che succede da anni ormai, quando una madre mette al mondo un bimbo, e quindi le conseguenze che questo può avere se ciò accade in una donna che ha già dei pregressi di natura psicologici poco stabili per vari motivi che possono essere tanti, dal modo della società che la circonda, dalla vita che ha avuto in passato, magari dei traumi adolescenziali, però sono tutte cose che poi dopo la maternità, se non sono state curate, trattate a fondo prima, poi vengono a galla in maniera acuta e in maniera depressiva e quindi possono portare alla depressione postpartum che può creare poi appunto portare all'infanticidio senza che la donna stessa se ne renda conto. La voce e l'intervista raccolta da Marta Cagnola e oltre a ringraziare lei ringrazio Franco Piantanida, Filippo Oreggi, Davide Ciocia, Pietro Lacorte che hanno permesso di realizzare questo programma. Naturalmente da parte mia io sono Gigi Donelli, vi saluto da Perugia e vi anticipo tra qualche istante, vedo proprio davanti a me Federico Taddeo che si prepara per il consueto appuntamento del sabato con l'altra Europa, aggiornamenti da GR24 e poi insomma tutte le novità europee che vengono raccolte nel nostro consueto spazio del sabato. Abbiamo chiuso, un ottimo fine settimana a tutti voi, a presto.